Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Non so se vi giunge questo rumore. Arriva perfettamente. Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. E si vede una specie di torrente con una violenza. Quest'acqua che veniva, la cosa che faceva più paura era la violenza di quest'acqua. Sono incalcolabili perché distrutta tutta la mobilia nelle famiglie e distrutta specialmente le botteghe dove si ricrea la ricchezza. L'acqua è venuta nei giostri così a cascata. Erano tutti libri abbastanza voluminosi, dovremmo salire le scale anche noi perché l'acqua ci passava sopra. Un politico di Giotto, l'incoronazione della Vergine degli Uffizi di Filippo Lippi, dipinto di Almantegna, dipinto del Tiepolo e altre tante cose importanti, filandole velocemente sul pavimento si riuscì a portarli via tutti. Fatto più volte per buttare via il fango, per prendere le forme di piombo dei volumi, trasportarle da una parte all'altra, lavare tutto. Sono centinaia e centinaia i giovani e giovanissimi che dal momento del disastro hanno lavorato senza un momento di riposo a salvare la gente, i libri, le opere d'arte. Era l'alluvione di Firenze del 1966, sono passati 47 anni con in mezzo 3.300 casi di dissesto idrogeologico e 213 miliardi di euro spesi solo per tamponare i danni prodotti da una politica assurda nella gestione del territorio. Dottor Antonello Frau, vicepresidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna. Dottore, nel vostro manifesto dite che la gestione del territorio non è un costo ma un volano. Ma perché non passa la vostra idea? Ci sono parecchie sicuramente difficoltà e forse interessi diversi da quelli che sono evidentemente i risvolti. Noi, no, però provi a non essere diplomatico, mi dica una cosa precisa. Perché non passa? Ma non passa perché probabilmente molte volte il cemento è più importante dell'ambiente, semplicemente ecco. Questo. Ah, ecco, questa è una risposta vera. Senta, 40 anni di allarmi completamente inutili, praticamente. Sempre sì, perché il cemento è più importante del resto. Ma guarda, l'infrastrutturazione che c'è stata, ormai dobbiamo farne conto, è chiaro. Poi qui noi ci troviamo davanti a un evento che ha messo in crisi qualsiasi modello e sistema di gestione e di pianificazione del nostro territorio. Però è chiaro che tutto questo insegna, le infrastrutture, tutto ciò che noi abbiamo deve essere valutato in funzione della compatibilità del rischio. Perfetto, quindi questa è la cosa più importante. Ecco, oggi però ciò che è importante è la gestione del rischio, perché davanti a eventi catastrofici non possiamo fare altro. Dove ha vinto il cemento, il rischio è infinitamente superiore. Bisogna certo, dire questo sì, con chiarezza. È certo, così? Certo. Va sì, bene. Sì, certamente questo è importante. Chiedo un'ultima cosa. Le precipitazioni negli anni sono aumentate. E quindi quali sono le previsioni di rischio? Sono aumentate anche le previsioni di rischio? Ma guardi, non è tanto l'aumento della precipitazione, ma sono gli eventi di breve durata e intensi, che sono praticamente, quindi, in un certo senso, tra virgolette, straordinari. Grazie, dottor Frau, grazie mille, buon lavoro. E niente, arrivederci, buonasera, grazie a lei. Il vicepresidente dell'Ordine dei Geologi, avete sentito, Sardo, non ha dubbi. La maggior parte della colpa dei disastri e delle sue conseguenze non è della natura, ma dell'uomo. Quasi da ovunque cementificazione selvaggia, fiumi interrati, scelte urbanistiche fuori da ogni buon senso. Ecco Mario, tu sei sardo, hai diretto l'Unione Sarda e la tua terra, in questo caso è caduta in 24 ore la pioggia di 6 mesi. È una scusante? No, perché ci sono almeno 2-3 fattori di cui tenere conto. Il primo è che arrivava il ciclone, si sapeva con largo anticipo la protezione civile stessa aveva avvisato. Adesso abbiamo la postiglione del dottoressa Postiglione che ci spiegherà bene. Aveva avvisato con anticipo, primo. Secondo, questi eventi atmosferici hanno un grado di potenza che è abbastanza rilevabile in realtà, cioè si sapeva che sarebbe stato catastrofico, quindi questo è un altro elemento. Terzo, non è un terremoto, mentre si sa che i terremoti non si possono prevedere, certo. Questo sì, no? E quindi vale è un altro gancio, diciamo. E infine, insomma, quello che è successo in aria lo abbiamo visto, ma è incredibile secondo me quello che è successo a terra, perché al di là della eccezionalità evidente della precipitazione, cioè, c'è un tema enorme: l'informazione e la disorganizzazione. Dottoressa Postiglione, del Dipartimento della Protezione Civile, direttore del volontariato formazione e comunicazione. Ecco, che Cleopatra sarebbe arrivato, si sapeva, l'abbiamo detto, ridetto tutti. Ma erano tutti avvisati, dottoressa? Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno a lei. Sì, partiamo appunto da quello che stavate dicendo. Effettivamente la previsione su questo arrivo di una perturbazione particolarmente intensa c'era, così come c'era una valutazione di quelli che poi potevano essere gli effetti, perché di questo chiaramente stiamo parlando. Le previsioni di protezione civile sono mirate a capire quali possono essere gli effetti sui territori. Ed erano tutti diversi. Avvisati? E la catena di allertamento prevede appunto che Regione e Dipartimento, quindi la parte di coordinamento nazionale, concertino appunto le previsioni e partono queste indicazioni sui livelli appunto di criticità attesi. E che cosa non ha funzionato in questa catena che va dall'allerta alle decisioni operative per proteggersi? Allora, chiaramente, come lei immagina, adesso siamo tutti concentrati a portare avanti la gestione dell'emergenza, che è chiaramente la priorità in questo momento. Ovviamente. Poi ci sarà il tempo anche di capire che cosa è successo, a quale livello, in cui magari si è persa qualche informazione. Dai primi ritorni che noi abbiamo, sinceramente non abbiamo sentito sindaci lamentarsi del fatto che non fossero stati avvisati. Adesso bisogna capire se l'informazione poi è arrivata ai singoli cittadini. Non è un'operazione semplice, anche perché le comunità stesse molto spesso non hanno una consapevolezza vera del rischio e quindi delle condizioni in cui si trovano. Sperano sempre che in qualche modo non accada un qualche fatalismo, ma su questo bisogna lavorare, cioè nel senso che qui bisogna fare un'azione congiunta, istituzioni, comunità, rappresentanti dei cittadini, perché maturi una cultura seria di consapevolezza del rischio e quindi anche di necessità di informarsi, di essere aggiornati, di essere parte attiva in dei processi. Ecco, però non sono trasformazioni che si fanno nel giro di poco tempo, bisogna investire. Come dobbiamo investire sulla prevenzione strutturale? Non posso che essere d'accordo con gli interventi precedenti, evidentemente. Allo stesso modo bisogna lavorare ancora tanto sul tema appunto della consapevolezza. Senta, l'allarme adesso dalla Sardegna, che è in una situazione oggettivamente drammatica, sembra che si stia spostando verso la Calabria anche. Lì siamo organizzati? Allora, in realtà la Calabria è stata già investita nella giornata di ieri da una perturbazione molto intensa che ha fatto già una serie di danni più o meno localizzati e quindi ha causato delle criticità. La perturbazione non è finita, come sta continuando a piovere in Sardegna, seppure in maniera molto più debole. Allo stesso modo, in tutta la giornata di oggi abbiamo ancora interessato tutte le aree del Tirreno meridionale. Siamo organizzati, lei sa come me che il sistema di protezione civile è un sistema complesso, non c'è un'amministrazione singola, è un sistema che coinvolge le istituzioni tutte, quindi saremo veramente organizzati quando tutti i comuni d'Italia saranno organizzati, avranno piani di emergenza efficaci e soprattutto, come dicevamo, i singoli cittadini saranno consapevoli di questo, sapranno che cosa fare non solo durante ma anche prima, appunto in caso di un avviso. Appunto prima, io le dico, dottoressa, 6 milioni di italiani vivono in aree a elevato rischio idrogeologico. Lo sanno? Intanto lo sanno? Sono informati con precisione? Se vuole una risposta secca, no, nel senso che non tutti gli italiani lo sanno. Perché non lo sanno? Non lo sanno perché in alcuni casi hanno anche subito delle scelte fatte sul territorio, in alcuni casi ne sono stati anche partecipi, certo. Perché poi in qualche modo scegliere dove costruire non è qualcosa che necessariamente piove dall'alto. Il punto è che però perché ci si informi bisogna comunque esserne in qualche modo consapevoli. Dovrebbe scattare lo stesso principio che scatta quando si acquista un'automobile e ci si preoccupa che ha l'airbag o i sistemi di sicurezza. Per far questo però, ripeto, non è neanche corretto scaricare sui cittadini inconsapevoli. Dobbiamo lavorare tutti perché questa consapevolezza in tempo di pace, dottor Minoli, certo, cioè non quando c'è l'emergenza, naturale, diventi patrimonio di, anche dell'informazione pubblica. Ecco, ma dottoressa Postiglione, per quello che vi riguarda, questi 6 milioni di italiani, voi gliel'avete detto con precisione che sono a rischio? Cioè, avete questo compito anche di sensibilizzazione oppure tocca alle autorità locali? Sicuramente raggiungere i cittadini italiani così diversi da nord a sud, che vivono in contesti così differenti, non può essere, non deve essere un compito che dobbiamo immaginare parta unicamente da Roma, perché anche i linguaggi in alcuni casi vanno adattati a quelle che sono le realtà locali. È un discorso di sistema da fare, quindi sicuramente noi stiamo lavorando per questo. Voi sapete bene che le autorità di bacino con i piani vanno a dettagliare le singole aree nei singoli contesti territoriali. Su questo bisogna effettivamente raggiungere i singoli, ecco, e dottoressa, ci devono dare una mano le autorità locali, non c'è dubbio. Dottoressa, la prego di restare ancora un attimo, senta questo audio. Rovigo, 1951, 89 morti. Catanzaro, 1951, 70 morti. Salerno, 1954, 318 morti. Firenze, 4 novembre 1966, 35 morti. Biella, 1968, 72 morti. Valtellina, 1987, 53 morti. Sarno, 1998, 159 morti. Messina 2009, 36 morti. Eccetera, eccetera, eccetera. Solo per le alluvioni sono morte 1224 persone, senza contare le vittime per frane, smottamenti e terremoti. Dottoressa Postiglione, in America negli ultimi tempi ci sono stati 50 uragani e 5 morti. Ecco, funziona meglio lì la protezione civile? Paragonare due sistemi così diversi, non soltanto in termini organizzativi, ma anche di fenomeni, è in qualche modo un po' azzardato. Certo, una domanda provocatoria, lo so bene. Assolutamente. Gli uragani in America ci sono tempi, procedure completamente diverse, ci sono queste evacuazioni di massa che però sono legate a fenomeni di cui effettivamente poi il passaggio da previsione a realtà è anche un passaggio facilissimo da fare. Cioè, tutto da noi no, questo è quello che stavamo dicendo. I cicloni mediterranei sono una cosa evidentemente un po' diversa, che infatti non procurano uragani tipo quelli americani. C'è questo conto di morti che è tragico. Ricordiamoci però che grazie a un sistema di allertamento che pian piano negli anni si è costruito, e comunque a territori dove invece c'è anche un approccio assolutamente positivo, costruttivo rispetto alla protezione civile, tanti morti sono stati anche evitati. Insomma, abbiamo situazioni fortunatamente positive. Non escludiamo che ce ne saranno ancora. Naturalmente, purtroppo mi pare che il numero è molto alto. Grazie dottoressa, buon lavoro. Mario, tu hai capito di chi è la responsabilità? Perché costruiamo troppo. Sì. Si allerta, non si allerta, si allerta, ma la catena è lunga, complicato. Vi ricordo che il nostro numero verde è 800 24 00 24 per chi vuole chiamare, sms 349 238 6666. Ma guarda, ovviamente le cause è un insieme di cause, non è una sola causa. Molte sono state elencate qua. Io penso che in questi casi però la cosa più importante è la catena di comando, cioè la protezione civile dall'allarme. Arriva i prefetti, arrivano i comuni e lì si ferma. perché i cittadini purtroppo questo, i dati che servono per come comportarsi e che cosa fare non arrivano, ed è per quello che ci sono dei morti. Se tu guardi la concatenazione di eventi in Sardegna ti renderai conto che alcune fini atroci si potevano evitare: la famiglia nello scantinato, la gente che viaggia in auto quando non dovrebbe e viene travolta da una piena. Erano morti in parte evitabili con una corretta informazione. Pietrangelo, Sicilia come la Sardegna? Beh, mi meraviglia tanto perché comunque la Sardegna rispetto al sud Italia ha una organizzazione migliore, molto più efficiente. Abbiamo un rapporto malato col territorio, si strappano gli alberi d'estate per paura degli incendi e poi la terra invece viene devastata. Ogni volta che ci torno io vedo quanto metraggio viene divorato dal cemento. Un rapporto malato. Io ricordo di aver seguito professionalmente Sarno. L'impressione che mi sono lasciato dentro è quella di questa terra smossa, lavata, buttata e nuda, senza che ci fosse una radice. Negli anni 30, negli anni 40 in Italia c'era una legislazione ferocissima. Chiunque avesse sradicato un albero tagliato veniva tratto in arresto immediatamente senza nessuna requie. E se solo provassimo a vedere e a comparare che cos'era quel territorio al tempo del regno, per esempio, parlo di Sarno, e che cosa poi è diventato, quel terrazzamento non veniva mai devastato perché c'era un principio fondamentale che era quello di dare sempre luogo al fuoco e all'acqua, e quindi un rapporto con l'acqua che veniva regolato dalla sapienza contadina molto più efficace di qualsiasi organizzazione moderna. Ecco, però l'uomo ha delle responsabilità, l'abbiamo detto, anche dei meriti. In 2 anni fa, in uno dei posti più belli d'Italia, le Cinque Terre erano sommerse dal fango e dall'acqua. Antonio Nipollina è un giornalista di Repubblica che lavora e vive le Cinque Terre. Ecco, prima di sentirlo vorrei sentire un ascoltatore che ci ha chiamato. Mi passate la linea, Giampaolo, poi Antonio. Giampaolo, buongiorno. Sono Giampaolo. Sì. Ho un'età che mi consente di dire che sfortunatamente ho vissuto la Seconda Guerra Mondiale e gran parte della mia infanzia di ragazzino di 4 anni, 5 anni e passava nei rifugi. Mi dica. Allora la gente sapeva tutta che cosa andava incontro. Dai. Dallo scemo del villaggio alla persona più istruita, avevano tutti la stessa consapevolezza della paura. Adesso a queste generazioni consumisti la paura gli fa un baffo, non esiste. Uno va in autostrada 100 all'ora perché tante si figuri. Cioè siamo diventati idioti, questa è la verità. Cominciamo a dare le colpe anche alla popolazione. Anche a noi, abbiamo le nostre responsabilità. Grazie. Antonio, abbiamo le nostre responsabilità e sicuro lo stiamo dicendo tutti, perché c'è una distrazione, un egoismo che porta gli italiani a preferire l'abusivismo, per esempio, a recuperare il territorio con costruzioni adeguate, come dice Marcello nell'SMS che ci ha mandato. Però lì da voi, Antonio, c'è stato un miracolo, ci credevi? Beh, innanzitutto registro le impressionanti analogie appunto di quello che sta succedendo con allora. Qui è successo che da un minuto dopo però si è andati a caccia, a cercare, si è creduto profondamente nella propria ragione sociale, mi viene da dire, perché che è la vita. Sì, ma che è il fatto di rendere questi posti, tornare in tempi assolutamente ragionevoli, brevi, a rendere questi posti i posti dove si deve e si può andare perché sono bellissimi, perché vivono di quello, perché tutto, cioè l'identità, una formula identitaria fortissima, per cui ci deve essere il trenino meraviglioso che fa tutte le stazioni della Cinque Terre, ci deve essere un attimo dopo. Questa fortissima esigenza identitaria di non scomparire del tutto, di non abbattersi. Esattamente, ma proprio per recuperare quello che si è in primo luogo, perché questi posti in primo luogo devono essere i posti dove la gente arriva e dove si ha fiducia. È successo in ottobre, fai conto, e nelle cronache giornalistiche che si recuperano di allora ci sono pagine quasi di letteratura sul fatto che già a Pasqua si sono visti i primi turisti che timidamente tornavano. Ecco, e era il segno che si stava recuperando. Bisogna credere in quello che si è. Ecco, sì. Antonio, l'impegno maggiore, se capisco bene dalle tue parole, è stato quello della popolazione più che delle istituzioni, oppure tutte e due insieme? se la popolazione non ci crede e se non rincorre appunto il fatto di recuperare se stessa e quello che è in primo luogo, e spero che valga anche per la Sardegna, non, nulla può andare come deve andare. Poi è logico, ci deve essere l'incontro con i contributi, con le cose che succedono. E la protezione civile c'è stata. E la protezione civile è stata. La protezione civile c'è stata, e tieni conto che non dobbiamo limitare alle Cinque Terre quello che è successo, che appunto le Cinque Terre fanno colpo, anche solo a sentirle dire, le conoscono in Wisconsin, certo. E quindi sono famose nel mondo per la loro bellezza. Ma tutt'attorno anche zone molto meno conosciute, anche nell'entroterra, devastate anch'esse. E beh, ancora l'altro giorno c'erano polemiche, interrogazioni politiche sui finanziamenti promessi, sugli investitori che si sono fatti dare soldi dalle banche per ricostruire e ancora non hanno i rimborsi e così via. È una storia molto complessa. Molto complessa. Grazie Antonio. Comunque una storia molto complessa, ma di speranza, perché lì la popolazione, con l'aiuto delle istituzioni che si sono impegnate, ce l'ha fatta anche. Mix 24. Amami adesso che è più buono il mio cuore. Angelo, questa canzone? Chiamami di Paolo Conte, perché c'è una frase fondamentale. Adesso il cuore è diventato più buono. Ci sono storie importanti, storie che raccontiamo, e poi ci sono storie che apparentemente minute, quelle di ognuno, di ciascuno, che sono piccole ma prendono il cosmo. E quindi chiamami, perché ognuno ha bisogno di essere chiamato. Mario, oggi cosa bolle in pentola? Sigla. Io sogno Peppa la Bocca. Questo è mio fratellino Pippo la Bocca. Chi sta da Bocchi mamma? E chi sta da Bocchi mamma? E che cos'è questo? Peppa Pig in siciliano. Perché? Perché di Porcellum bisognerà pur parlare ancora, caro Minoli e cari ascoltatori. E qua la riforma elettorale pare che non sa da fa, né se ne riparla nelle istituzioni. Renzi dice che purtroppo Grillo e Berlusconi si sono messi d'accordo e sul Porcellum troveranno il loro punto unico d'incontro. Forse è vero, chissà. Ma tu Renzi l'hai visto? No, io Renzi non l'ho ancora visto, ma spero di vederlo. Ma l'abbiamo invitato per un faccia a faccia, qua io lo voglio vedere. Ah, verrà sicuramente nei prossimi giorni verrà. Noi abbiamo comunque un pezzetto. Ma prima i Salamini, vorrei sentire Salamini. Salamini su chi? Salamini. Allora, Salamini servono per introdurre la categoria del piritollo, il piritollame o il piritollare, che dir si voglia, qualcosa che riguarda il frizzante, il brioso. E siccome l'Italia della politica si è affidata dopo un ventennio di stucchi e cosmesi a Berlusconi, adesso passa alle bollicine briose piritolle di Matteo Renzi. Eccolo. Che si fa fotografare in copertina su, no, Vanity Fair, il giornale del glamour per eccellenza. Mi metto la cravatta e la giacca, dilla. Sì, no, lui si è tolto la giacca con la camicia. Non avevo dubbi. Si è presentato camicia. Sempre con la camicia, perché ha copiato il canone di Bocchino, che fu il primo a inventare la camicia. Non l'ha portato bene, no. Vabbè. Prima Martelli. Però lui aggiunge la cravatta, se la noda, guarda in tralice, e sempre in ambito di piritollame, il suo braccio destro, cioè la Maria Elena Boschi, dice in un'intervista che non vuole più essere identificata in virtù di battute sessiste, non vuole essere più chiamata Giaguara. Benché portando quelle scarpe giaguarate, le scarpe non vuole, giaguarate, non vuole essere definita tale. Belle scarpe. Però io ai due carina diventi tutti i giorni Fred. Più carina, ecco, guardate, carina. E sono proprio carini però io Giovanni, siccome faccio sempre vanto del radar affidato alle corna lunghe. Io ricordo di un tuo faccia a faccia con lui. Ah, quest'estate, sì, a maggio, giugno. Allora forse c'è un pezzetto che... mentre lo aspettiamo lo potremo sentire. Lei interessante, cita insomma. Sempre un poeta francese che dice: bisogna saper forzare l'aurora, che è una bellissima immagine. Adesso non è per lei avere il coraggio di buttarsi nella mischia e tentare di cambiare il PD? È una bellissima domanda. Io però credo anche che le idee in politica valgano più degli uomini. In questi ultimi 6 mesi io mi sono sostanzialmente candidato a tutto. Si candidasse anche a questo? Cioè, a questo non mi candido. No, ecco appunto, se candidata a tutto è la cosa più seria, no. No, non è la cosa più seria. Perché è la più difficile da fare questa. Beh, non che fare il Presidente del Consiglio contro il proprio partito fosse semplice, diciamo. Infatti, però personalmente non credo di essere adatto a tutto. Il Partito Democratico deve fare una riflessione su se stesso. Non credo di essere la persona adatta. Vabbè, è cambiato idea, questo è un bene, ma perché in politica... Ma candidato, io non l'ho capito. Candidato a segretario del Partito Democratico. Ma, poi no, cambia, ma ha detto che non si è candidato. No, ha detto che non si sarebbe candidato, poi però candidato. Giustamente la realtà è stata quindi più forte di lui. Il non candidato si è candidato. Vabbè, sai, ha dato molte interviste, può essersi confuso, ragazzi. Su. Ma qua bisogna evitarlo a questo punto. Io voglio un faccia a faccia Minoli Renzi. Sicuramente. Senti, voglio vederlo. Andiamo avanti con le bolle. Che piritollano molto. Che piritollano tutti e due. cose serie, sentite. Un brivido corre lungo la schiena di Buttafuoco quando sente il muezzin. Che è già abituato alla preghiera. Certo, è già fatto. Ripartono oggi a Ginevra i colloqui sul dossier nucleare iraniano. Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito proveranno a chiudere un accordo, Francia permettendo. Segnalo che 6 sagome repubblicane negli Stati Uniti rompono un po' i disegni, chiamiamoli così, di Obama, chiedendo nuove sanzioni all'Iran quando... si dice il tempismo. Bisogna occuparsi della Siria, si spara sempre, come sapete, lì non è mica finita. Abbiamo evitato, assolutamente, abbiamo anzi, evitato una guerra, ma il fuoco riemerge continuamente, sì, e non è amico. Segnalo sul Wall Street Journal, per chi è appassionato di questi temi, un magnifico reportage interattivo sull'esperienza di chi vive e lavora per la pace, fa la sua vita quotidiana al confine tra Siria e Turchia, che sai bene. È un giornalismo vivo. Molto bello, molto bello. È un reportage straordinario, devo dire. Ci sono un po' di indiscrezioni sulle prossime mosse di Papa Francesco. Ho letto stamattina un po' di articoli, uno molto bello era di Matteo Mazzuzzi sul Foglio, altri su altri giornali. Si prepara un po' di rivoluzione alla CEI. Monsignor Crociati, il segretario generale, deve essere sostituito. Il Papa chiede più collegialità. E dunque, campana. Wall Street, questa era la campana di Wall Street. Certo, è cominciata. Wall Street perché? Perché JP Morgan, e io sono sempre impressionato da queste cifre, anche se insomma da tanti anni le leggiamo, ha trovato un accordo col Dipartimento della Giustizia americano, multone, 13 miliardi di dollari per tutta la vicenda del super. Multe su multe. Sì, questa da 13, un'altra da 4. Sai, devi tenere presente che JP Morgan ha asset per 2,5 trilioni, forse anche di più. Quindi non c'è problema. Non c'è problema. Segnalo per gli appassionati di high tech, sai che io ogni tanto ci butto dentro qualcosa di questo mondo, che è il mondo virtuale, è il mondo del futuro, ma anche reale. Dropbox vale 8 miliardi di dollari, il sistema di archiviazione online. E... Io voglio il divorzio. Non avrai il divorzio. Quando una coppia comincia a segnare i punti, non ci sono vincitori, ci sono solo livelli di sconfitta. Cosa? Io sono stata a trovare questa casa e ho comprato tutto quello che c'è dentro. Con i miei soldi è tanto più facile spenderli che farli. La guerra dei Roses, perché Rupert Murdoch divorzia per la terza volta. Domanda: perché lo fa? Perché crede nel matrimonio. Il terzo. Mix 24. Siamo di nuovo in diretta a Mix 24, sono le 9.46, anzi quasi 47, numero verde 800 24 00 24, numero SMS 349-238-6666, se avete qualche riflessione da fare sulla programmazione televisiva di ieri sera, dove era la qualità oppure dove non era, potete telefonare. Abbiamo in collegamento, come sempre, il professor Simonelli per parlare di televisione di qualità, ma intanto voglio chiedere a Mario Secchi e a Pietrangelo. Dove era il canone ieri sera per posso voi? Togliere la parola a Mario Secchi e anche alla tua domanda? Hai diritto. Perché il servizio pubblico, canone, carta stampata. Allora, sulla carta stampata, giornali, oggi, sul giornale più particolare, sul Foglio di oggi, in prima pagina, c'è un bellissimo articolo, Morte per acqua, di Mario Secchi. Ah vabbè, qui siamo arrivati. No, siamo perché non te è stronca solo la carriera, non è solo il tentativo di fare uno spot al nostro giornale, sì. Ma anche perché, a Mario Secchi. No, neppure per segnalare come di una storia dove abbonda la retorica c'è la sostanza di un racconto che svela molto più dell'allarmismo, molto più delle terribili stupidaggini che portano alle tragedie. Solo per questo. È vero. Bene, io mi alzo. No, ti prego, resta. Professore, lei l'ha letto? Non ancora. Non ancora, mi raccomando. Lo leggerò. Mi raccomando, professore. Tu cos'hai visto, Mario? Dov'era il canone per te? Io sono alle prese con Faust. Poi vedrai perché sto leggendo, sì. Faust. Quindi niente televisione, niente, sei in televisione, meditazione profonda. Sì, Faust. Molto Faust. Vabbè, professore, qui a televisione non la vede più nessuno, mi dica lei dove no, la vedo in ore impossibili. Allora io mi sento un po' in imbarazzo di fronte a queste cose. Dica. Ma vi dirò che ieri sera il canone era prima di cena su Rai 1 e subito dopo su Rai Yo-Yo, perché c'era la prima puntata dello Zecchino d'Oro. Può sembrare strano, in una giornata tragica, luttuosa per l'Italia, segnalare questa cosa, ma voglio dire che al di là di perplessità, riserve che si possono avanzare sulla conduzione, sulla scelta delle canzoni, sul problema che lo Zecchino ha oscurato su Rai Yo-Yo Peppa Pig, che è uno dei cavalli di battaglia. Beh, ne abbiamo parlato, abbiamo messo in siciliano. Ma l'ha sentita in siciliano? La scelta dello Zecchino... L'ha sentita in siciliano, professore? Sì. Senta un po'. Ve la faccio risentire. Questo è mio fratellino Pippo Bocco. Chi sta da Bocchi Moma? E chi sta da Bocchi Moma? Vabbè, mi scusi per questa... Ecco, però questo intermezzo oggi rappresenta, come dire, una terapia salutare che dimostra che si possono conciliare infanzia, canzoni, canzonette, cantate, non ricorrendo a quei trucchi di io canto, ti lascio una canzone, a quell'adultizzazione del bambino che invece è molto pericolosa. E quindi viva lo Zecchino. Guardi, noi abbiamo un nostro telespettatore, radioascoltatore, Cristina da Cagliari, che dice il telecomando era su Rai 3, su Gazebo di Zoro, in particolare sulla copertina disegnata da Marco. I nostri... I nostri ascoltatori, che quello è bravissimo. Continuo nella mia frivolezza. Guardi, tra l'altro il canale Yo-Yo per i bambini è veramente un bellissimo canale. Ecco, segnalo ancora due cose di ieri sera, sempre tenendo conto che diamo un premio, insomma, a Sky Sport, che ha trasmesso... No, ma scusi, è finito la riflessione? Posso dirlo per il professore? Sì, professore, stamattina qua sono tutti indisciplinati. A proposito di Zecchino d'Oro, lo Zecchino d'Oro ha una componente di indisciplina, nonostante. Sentiamolo indisciplinato. Una cosa di indisciplinata verità, volevo dire. Salutare con gioia la decisione di beatificare Marielle Ventre. Allora, perché si è stato istituito il processo di beatificazione, caro mio. Allora, istituzioni. Io continuo la mia indisciplina e vi segnalo che ieri sera Sky ha trasmesso due partite bellissime, quella della Francia e quella del Portogallo e Svezia. Ma soprattutto dobbiamo rendere onore a Mediaset Premium, che ha trasmesso gli spareggi del calcio africano, perché non basta concentrarci sulla nostra nazionale e tutto, ma il bello del calcio è l'internazionalità, è la capacità del calcio di aprire panorami e scenari su un mondo che non conosciamo, sull'Algeria, sul Burkina Faso, sull'Egitto, sulla Costa d'Avorio. Quando il calcio è questa cosa, è una lettura del mondo, e quindi certo, onore a Mediaset Premium, l'unica che ha trasmesso gli spareggi del girone africano. Gianni, scusi professore, ci abbiamo Gianni da Roma. Gianni, prego. Sì, buongiorno. Mi fa piacere il gusto che hanno provato i vostri ascoltatori. Io invece ho provato purtroppo il terrore, sì, da un servizio che hanno fatto le Iene, che vi invito ad andare a vedere perché voglio rivederlo anch'io perché è incredibile, circa le rivelazioni di un pentito, credo proprio di un Mamma Santissima, che ha rivelato che nel 93 ha dato informazione circa l'esistenza di centinaia di ettari, descrivendone da Google Earth proprio il posizionamento, di rifiuti tossici atomici in Sicilia, in Campania. Esatto, andatelo a vedere, l'abbiamo visto. Io ho l'emozione perché ho due figlie piccole. Noi domani parleremo di questo. Abbiamo già parlato dei fuochi in Campania, lo rifaremo. Grazie, comunque un ottimo consiglio. Abbiamo un amico che ci dice, non so chi sia il più insopportabile dei tre, ma è una bella gara. Bello. Mi sembra gentile, cercheremo di migliorare. Grazie. Io voglio arrivare comunque primo, dei consigli. Però, sarà una bella gara, professore. Sono escluso dai tre. I professori sono naturalmente è un tecnico. Fuori concorso. No, voglio entrare anch'io. Sì, va bene, ok. No. E allora andiamo avanti con la nostra analisi. Andiamo avanti, vado avanti io? Sì, certo. E allora, dicevo, insomma, questa cosa che l'ultima segnalazione è interessante, magari una volta l'affrontiamo, perché effettivamente le informazioni più originali, più strane, ma anche più significative, vengono non dai telegiornali, non dai programmi canonicamente riconosciuti come quelli di informazione. Vabbè, ma domani ne riparleremo, professore. Da tempo vengono da programmi così diversi di infotainment, certo. Forse questo meriterebbe. Vabbè, ne parleremo, avremo tempo. Grazie, professore. Oggi con la storia, a cura come sempre di Marina Milone, raccontiamo una delle indagini più complicate, quella dell'omicidio Kennedy, partendo da una domanda: chi era Lee Oswald? In chiusura, un faccia a faccia con il regista del film JFK, Oliver Stone.